371. Pasticcio di carne. Magro di vitella di latte, grammi 200. Magro di maiale, grammi 100. Burro, grammi 60. Prosciutto cotto tagliato grosso, grammi 60. Lingua salata tagliata grossa, grammi 50. Midolla di pane, grammi 50. Un petto di pollo, un fegatino di pollo, una lodola o un uccello consimile, un tartufo, marsala, un decilitro. Mettete al fuoco col detto burro e conditeli con sale e pepe, la vitella, il maiale, l'uccello, a cui leverete il becco e le zampe, il petto di pollo e per ultimo il fegatino, bagnandoli con la marsala e poi con brodo per tirarli a cottura. E prima di levarli, lasciateci per un poco il tartufo. Poi, nell'intinto che resta, gettateci la midolla del pane per fare un poco di pappa. E questa messa in un mortaio con l'uccelletto, un rosso d'uovo, la quarta parte circa della vitella e del maiale, fate un composto passandolo da uno staccio di fil di ferro, ma se riuscisse troppo sodo, diluitelo con brodo. Tutta la carne rimasta, il prosciutto, la lingua, il fegatino e il tartufo, tagliateli a quadretti grossi come le nocciole e mescolate ogni cosa insieme unitamente col composto passato. Ora prendete uno degli stampi appositi da pasticcio di forma rotonda e, servendovi della pasta descritta al numero 372, incassatelo. Ma quando avrete distesa per bene la pasta tanto sul fondo che intorno allo stampo, foderatela con fettine di lardone sottili come un velo e dopo, riempito, fategli il suo coperchio regolandovi per il resto come il pasticcio di cacciagione numero 370. Se lo desiderate più signorile, non riempite lo stampo fino alla bocca e nel vuoto versateci, dopo cotto, un po' di gelatina numero 3 e servitelo freddo con altra gelatina a parte. Basterà per 8 persone.